Abbiamo Daria del martedì autogestito femminista e lesbico di Onda Rossa. Ciao Daria, ti Ciao. Introduciamo leggendo un ansa per farti un po' capire che cosa sta uscendo in rete, poi ti lasciamo la parola. Ciao Daria, la primissima cosa che abbiamo trovato riguarda Abruzzo Web, che comincia a dare dei flash rispetto al processo e rispetto ai sit-in, al presidio. Naturalmente il linguaggio è quello che conosciamo bene per quanto riguarda i media quando si tratta di stupro, e infatti la prima citazione della presenza della giovane studentessa in laziale in aula riguarda naturalmente il suo abbigliamento. Ti leggo la frase: la ragazza è in aula, occhiali da sole, sciarpa, giacca, maglione e blue jeans, quindi come se il dato dell'abbigliamento fosse quello saliente. Comunque il modo attraverso il quale leggere la sua figura, la sua persona, il suo corpo. Si continua poi spulciando in rete, e a questo punto però ti chiederemmo di raccontarci perché abbiamo appunto letto che è stata ammessa la costituzione di parte civile del centro antiviolenza. Quindi a questo punto a te la parola. Esattamente, allora innanzitutto direi che è importante dire che la ragazza ha deciso di essere presente al processo, gli è stato chiesto se voleva partecipare dietro un paravento e invece lei ha deciso di essere in aula, di mettersi il viso, è molto contenta del fatto che ci sia un presidio qui fuori, che ci sia la solidarietà delle donne, delle compagne, delle femministe, delle lesbiche, e insomma questo ci fa contenti anche a noi dall'altra parte. Siamo il presidio è abbastanza numeroso, vari striscioni, ma forse questo vi è già stato raccontato, slogan a momenti, visto che comunque l'aula e il tribunale è dentro una dislocato in aule costruite dopo il terremoto, per cui di container, tipo, per cui ogni cioè casino minimo che si fa fuori, dentro, dice che non si riesce, non riesco neanche a sentirsi, a parlarsi, quindi è un presidio abbastanza vivace ma anche silenzioso da qualche punto di vista. Per quanto riguarda la costituzione e parte civile del centro antiviolenza, io ti passerei direttamente una compagna che ho qui davanti del centro antiviolenza dell'Aquila, così vi racconta lei. Sì, perfetto. Ok? Sì. Va bene, ciao, te la passo. Ciao. Pronto? Pronto, un buongiorno a te. Sei in onda su Radio Blackout. Sì. Allora, ci ha detto appena adesso Daria che siete riusciti a costituirvi come parte civile, come centro antiviolenza dell'Aquila. Sì, chiesto ovviamente dalla ragazza e dalla madre della ragazza. Ecco, che risposta ha dato l'Aquila rispetto a questo? Noi siamo veramente grate, nel senso che è una delle pochissime situazioni in cui comunque è stata accolta la parte civile, la costituzione in parte civile del centro antiviolenza, e poi qui fuori ci sono tutta l'altra rete, sia territoriale che fuori regione, sia dei centri antiviolenza che delle associazioni femministe. Quindi siamo veramente molto, molto grate sia alla ragazza e alla madre che hanno fatto questa scelta di essere presenti, di essere all'aperto, di aprire questa grave vicenda alla cultura e alla civiltà di tutti e di tutte. E quindi il fatto che sia stata accolta che siamo state accolte come parte civile ci sta consentendo comunque di essere presenti lì in aula con lei, con la ragazza, perché ovviamente è sola, il processo è stato richiesto di farlo a porte chiuse. Mi hanno detto, sono tutte ovviamente informazioni di seconda mano, perché il difensore dell'autore del reato ha chiesto il rito immediato, questo è il giudizio immediato, e la procedura penale prevede che appunto il giudizio immediato si faccia a porte chiuse. Per cui adesso c'è anche il maggiore impianto del dibattimento. Il processo si chiuderà comunque in poco tempo, nell'arco di poche settimane probabilmente, e questo sicuramente è un bene per tutti, però ecco, ha generato comunque questa procedura di chiusura delle porte del processo, e quindi Personalmente io sto pensando al grande sforzo che stanno facendo Simona e Rosita, che stanno affiancando appunto in aula la ragazza, e oltretutto le uniche altre due donne che sono del collegio giudicante, composto da 5 giudici, quindi noi siamo tutte concentrate lì, ma dall'altra anche molto contente che possiamo seguire in prima persona questa grave vicenda. Senti, ti ringraziamo da parte nostra, visto che la puoi insomma incontrare, puoi avere a che fare con lei, veramente un abbraccio fortissimo a questa ragazza che ha avuto un coraggio incredibile, insomma, ad essere presente, a metterci la faccia di fronte rispetto alla situazione che ha dovuto subire, calcolando appunto il fatto che ci sono i giornalisti, che ci sono i media, che c'è un presidio fuori, che c'è quel pezzo di merda che le ha fatto quello che le ha fatto. Quindi davvero un abbraccio calorosissimo, falle sapere che sono arrivati tantissime testimonianze di solidarietà, che ci sono presidi e manifestazioni qui a Torino, ma in tante altre città d'Italia, che anche su Facebook stiamo seguendo l'evento, sul profilo di Medea ci sono tantissime richieste, tantissimi attestati di solidarietà, quindi forse il lavoro che stiamo facendo insomma può avere un senso, almeno insomma per farle sentire che non è sola, e la vicinanza di tante tante altre donne. Grazie. Un saluto, e noi poi ci rimetteremo in collegamento con il presidio attraverso le compagne di Onda Rossa più tardi. Ti ringrazio, quindi un saluto a tutte. A voi. Ciao. Grazie, ciao. Arrivederci. Ciao. Grazie.